Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. Per quanto riguarda una lista collegata a me, nel giro di una notte sono stati presentati alcuni nomi che nessuno ha potuto verificare. Quei nomi non li avrei candidati e faccio appello perché non siano votati. Alcuni candidati mi imbarazzano e come, però voglio dire a Ermanno e a tutti coloro che con lui sono imbarazzati e con me, che le liste del PD sono liste pulite, che il PD in Campania ha fatto pulito. Bacia mamma mia, già fanno dei fei servizi, la principessa, la miseria, mi sono una succionizia. Dico anche che se c'è qualcuno in questa regione che può fare davvero e nella sostanza la battaglia contro i poteri criminali, questo qualcuno è Vincenzo De Luca, come sanno anche le pietre. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro, zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è ad appoggiare il candidato del PD per regionale in Campania, c'è di tutto, non so se hai visto, una roba assurda, inquisiti, ex fascisti, collusi con la camorra, gente del fronte nazionale. Il più moderato è soprannominato, pensa, Mister Calibro 12, te lo giuro, per dire com'è moderato, poteva anche scegliere il 16 e invece ha scelto il calibro 12. I candidati che appoggiano De Luca in campagna non li hanno scelti con i comitati elettorali, li hanno estratti direttamente dal cast di Gomorra. Sì, però c'è una questione abbastanza seria su questa vicenda. Ma i nomi ce li dite di questi candidati? Perché alcuni sono impresentabili, basta non votarli. Ho capito, ma chi? Cioè, Vincenzo De Luca, ci fai i nomi e i cognomi? Perché sennò la gente non capisce. Renzi, c'è qualcuno non candidabile che mi imbarazza. Ma chi? Chi? Ditelo, chi? Perché sennò, se non dite chi, la gente come fa a sapere quelli che sono imbarazzanti, che uno non dovrebbe votare, che avete candidato voi? Peraltro, perché non erano controllabili. Non so, perché anche oggi Filippo Facci lo scrive su Libero, ma chi li decide? Chi sono gli incandidabili? Non so, uno che da destra è passato a sinistra? Ah, vi porto in Parlamento, ve ne presento un 300 che siedono adesso, magari a sinistra, a destra, e hanno cambiato. Chi sono? Gli indagati? Ma insomma, se uno non è condannato, quelli che... gli ex fascisti, ma cosa vuol dire? Non lo so, cioè, chi li decide? Saviano dice chi sono? Non lo so, ditemi chi sono questi incandidabili, il nome e il cognome. Perché De Luca, alcuni sono entrati in lista e non li volevi, puoi gentilmente fare il nome e il cognome, così la gente sa chi non dovrebbe votare se intende votare De Luca. No, così, ecco. Sono le 6:35 minuti, in estremo ritardo, ma ci siamo anche oggi con 24 mattino, Lorenzo Nespoli in redazione, Carmelo Lauricelli in regia e i nostri amici del mercoledì. I nostri amici del mercoledì. Lei dal 2015, Evviva le Rosse torna, ma diventa Evviva la Paola. Dovremmo anche Paola rinnovarla, Saluzzi, però. Paola Saluzzi. Facciamo un appello alla Paola Saluzzi. Lei è così bella, di cui non ce ne frega assolutamente. No, vabbè, nulla. No, ma ha ragione. Paolina, che bella. Anche se a me piace più Paoletta, però Paoletta, va bene. Buongiorno a Paola e Saluzzi, eccoci qua. Buongiorno Lino, ben trovato, non scamperai neanche oggi. Non scamperò neanche oggi. No, che... no. Cose mie con la regia, cose mie. Ah, mamma mia, no. Ma temo già. Da Sky a 24 mattino, Paola Saluzzi. Insieme al nostro Luca Dini, il nostro direttore. Dovremmo trovare una sigla. Adesso Super Dir. Dobbiamo trovare una sigla. No, no, e come per carità? La sigla di Batman. No, ma perché sì. Batman? No, perché quelle con Luca sono terribili. Quelle con Luca sono terribili. Ah, ce n'era una. Cos'era un... Luca era gay e invece sposa lei, è vero, no, è vero. Quella è la migliore. Di Povia, è vero, portata a Sanremo. Mamma mia. No, c'è anche una Carrà. Raffaella Carrà, prendere nota, Lorenzo Nespoli, prendi nota che qua abbiamo l'autore Luca Dini che ci suggerisce delle cose. Allora, buongiorno, ben trovati. Apriamo subito il Parlamento, dai, che qua si litiga. Voi li avete capiti chi sono questi impresentabili, Paola Saluzzi? Oggi qualcuno viene intervistato, c'è uno, Carlo Aveta, che andava... Ma io credo che, a meno che non le vogliano svelare il 29 o il 30 maggio... Ce li dicano, perché... di conoscerli, sì. Non mi colpisce però di De Luca, posso dire una cosa, questa voce da doppiatore di film anni 50, quando parla è una sinfonia. Io l'ho detto, è un incantatore di serpenti, il serpente sono io, quando parla io sto lì, lo ascolto così. Sì, come Mowgli quando gli si fanno tondi gli occhi. Bene. Esatto. No, però tu vorresti saperli? Andrebbero capire, sì, non lo so. Capire, insomma. A sto punto abbiamo sdoganato il fatto che ci sono degli impresentabili e dice lo stesso. Ci sono, esatto, è stato detto che ci sono, così chi vuole non vota. È chiaro, ma dicono non votateli, anzi fate così, non votateli. E dimmi chi sono però, perché così prendo nota. No, Luca Dini, sarebbe un'operazione, così la concludiamo questa vicenda, no? O no? Sì, vabbè, questa cosa è iniziata male con lui, diciamo, proprio, bisogna dire la verità, perché... Forse il primo presentabile è lui, nel senso non... No, beh, adesso sappiamo, ha una condanna in primo grado, rischia la sospensione. Sì. Cioè, le regole vanno, secondo me vanno rispettate o bisogna metterle in piazza. Cioè, è l'ennesimo, diciamo l'ultimo atto di una cosa che secondo me è iniziata male. È iniziata male. Io questa cosa del non controllo, non li votate, cioè, mi sembra molto molto... Non so, sospetto. Sembra finto quanto la voce, diciamo. È finto quanto la voce. No, vabbè. Però, la voce di De Luca, però tutto molto teatrale e poco serio. Poco serio. Vabbè, insomma, queste liste sono, fanno discutere. Avete sentito anche Renzi appunto a dire: boh, ci sono degli impresentabili, però le liste sono pulite, quelle del PD, mentre si litiga continuamente sulla scuola. La scorsa volta ne abbiamo parlato della scuola. Adesso gli sindacati propongono il blocco degli scrutini. Devo dire, non tutti i sindacati, ma alcuni sindacati. È proprio un modo per star vicino agli studenti. Il blocco. Il solito blocco degli scrutini, ma ragazzi, ma il blocco degli scrutini è una roba gravissima, cioè se succede. Paola Saluzzi, questo sarà un braccio di ferro da seguire minuto per minuto, come il calcio, perché l'esercito della scuola è un esercito molto numeroso e molto compatto fino ad un certo punto, per carità. Certo, il blocco degli scrutini sarebbe una cosa da, insomma, da annotare. Si chiama interruzione di pubblico servizio, si chiama. Ma sì, anche secondo me, dai, cioè arrivare a bloccare gli scrutini, io posso capire. Poi dopo che cosa si genera? Si genera quel cortocircuito per cui oggi si legge Repubblica e Renzi pare che abbia deciso, dice, e allora sapete che c'è, siccome ormai tanto qualsiasi cosa faccio a discutere mi dicono contro, e allora prova di forza, ma anche su questo metterò la fiducia al Senato. E dopo tu dici fa bene, poi c'è quel cortocircuito, sì. Ecco, metodi fascisti, poi approva tutto, certo. Lo so, qui bisogna capire chi sbaglia o chi no. Per Luca Dini fa bene, perché basta. Tu, Paola, che dici? Perché non vedo alternative. Non vedi alternative, cioè nel senso, a questo punto si discute, però poi basta. Ecco, la cosa è questa, capire perché si discuta senza arrivare ad un punto. Possibile che non ci sia proprio niente di riavvicinabile dall'una e dall'altra parte, niente? Non per lo so. Arrivare poi, come dici bene tu, alla fiducia, che poi chiaramente scatena, possiamo anche tenere i titoli già andati in onda, possiamo tenere come dire, le prime pagine già stampate, perché scatenerà la reazione delle reazioni che ormai sono sempre quelle. Sì, c'è da dire che le reazioni sono sempre quelle, però io non è che l'ho capita molto bene questa opposizione, perché vabbè, stabilizzano un po' di precari, ma forse non tutti, però danno, ecco, io la sensazione è questa, quando qualcuno dice la sensazione è che danno un po' di soldi anche per il merito degli insegnanti, gestiti però dai presidi, adesso però ci sarà anche un consiglio che li affiancherà, cioè la sensazione mia, forse mi sbaglio, è che si arrivino dei soldi che non sono gestiti, come dire, anche col controllo dei sindacati, no? La solita filosofia del sei politico, del tutti bravi, del premiamo tutti, degli scatti a tutti, della mancata meritocrazia, del tutti avanti, o no? Ma sei politico ha prodotto disastri, no, perché... speriamo no, insomma, ho capito quello che dici, ma... Boh, non lo so, la mia sensazione è che la protesta sia soprattutto su quello. Tu, Luca Dini, hai un'idea? Lasciamo perdere, guarda. Quando si parla del preside sceriffo, no? Attualmente esiste solo uno sceriffo che è l'insegnante, non ha uno sceriffo sopra. Cioè, ci vorrà pure un sistema dove qualcuno rende conto di qualcosa. Sì. Per esempio, il sistema attuale non funziona. Per esempio, c'è un'altra protesta degli studenti, questa contro i test invalsi, no? Lasciamo perdere. Il 23% degli studenti, ci sono queste foto di non siamo crocette, perché se sono questi test a crocette, ma negli Stati Uniti che fanno la scuola e fanno i test a crocette, non so, escono tutti rincoglioniti? Non lo so, chiedo. No. Non so se escono tutti rincoglioniti, diciamo che i risultati finali della mobilità sociale... Non mi pare, ecco, che siano peggiori dei nostri. E comunque, ribadisco, cioè, si può discutere che cos'è l'invalsi, chi ci guadagna, chi fa quei test, tutto questo si può discutere, ma sul fatto che ci possano essere dei test a crocette è ridicolo, e chi li ha boicottati... secondo me è un deficiente, scusate. Oh, ecco, oggi si è svegliato così, Luca Dini si è svegliato con il piede sinistro, Paola Saluzzi. Mi piace poi sentirvi parlare della scuola, perché io ho il piacere di sentire due papà. Oh, due papà, sì. Però che fanno i papà davvero, cioè, nel senso che si vede che sono attenti, sono presenti. Ce la si mette tutta. Ce la si mette tutta, però si sente, sapete? Si sente? Vabbè, questa è. Comunque le crocette, ma ben vengano le crocette, insomma, le ha fatte anche Carlo Rubbia, le crocette nei test d'ingresso, presumo, all'università, quindi è un grande augurio. Non ci formalizziamo su queste cose. No, ma infatti, cioè, che deve andare avanti. Ma no, ma infatti, per carità, poi se c'è qualcosa che non va nella riforma della scuola si discuta, ma questo muro contro muro, blocchiamo gli scrutini. Ma che vuol dire? È come quando tra le curve, tra loro allo stadio fanno muro contro muro. Auguri, di nuovo. Ma poi se bloccano gli scrutini cos'è? Tutti promossi, sei politico, non lo so, torniamo a quello. Dai, ma sì, facciamolo, tutti... si potrebbe fare. Bisognerebbe sentire, beh, ribadisco, io ho conosciuto soggetti del 18 politico, auguri, oggi è il mio mantra, vi giuro, dei personaggi inquietanti, cioè non esiste una cosa, un voto che debba essere politico, esiste un voto che debba premiare la preparazione, la capacità, la grinta, e anche se prendi 6 puoi essere un geniaccio perché ce l'hai fatta alla fine. Abbattere la tua pigrizia o la tua incapacità di capire qualcosa, ma non può esistere, tutto uguale per tutti. Tutto uguale per tutti. Tutto uguale per tutti. Tutto, torniamo a questo. Sapere in particolare, perché poi voglio dire, i ragazzi crescono e diventano grandi. E poi ti trovi dei grandi così in giro, in circolazione. Io voglio la scuola del sei politico. Torniamo a quello. Dai. Sei politico per tutti. Dai, intanto vi beccate anche tutti il traffico, questo è. Poi dopo rientriamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. Poi cosa? Ma cosa? Mi stai facendo già sudare la fronte. Mamma mia, che succede, mamma? Nina e Danny, sei sul posto del traffico, va? 24 mattino. Ma Milan, dopo il Mose, l'Expo, Roma Capitale, adesso c'è anche la banda ultralarga? Casa Pound ha fatto un errore, non doveva correre con la Lega. Grande errore, doveva correre da solo. Casa Pound avrebbe preso molti più voti. Ciao Alessandro, qui così con la storia della legge della consulta si sono dimenticati completamente tutti quanti di esodati, precoci e di tutti quelli che erano vicini alla pensione che sono stati rimandati in base alla legge Fornero, e sono tantissimi. Renzi sta rischiando di brutto, perché per esempio io e mia moglie non lo voteremo, devo fare come Lauro, mi mandi in pensione, ti voto, non mi mandi in pensione, non ti voto. Finalmente la legge elettorale è stata fatta, ma che cosa ci devi propinare? Secondo me mostra nei province, però a mattina mette la bellissima Paola Saluzzi con un monologo che così ci fa stare bene tutta la giornata e pure la notte, caro signor Milan, mette la signora Paola a mattina. E così noi ti battiamo sempre le mani, speriamo che le province ne le sciolgano mai, così ci teniamo la bella signora Saluzzi allegria a mattina. La capite, signor Milan? Devi essere più intelligente. Vabbè. Scusatemi. Fai pure, si ricomponga, si ricomponga, ecco. Si ricomponga, no, no. Paola Saluzzi, vuoi fare un monologo a questo punto? No, io ringrazio, ma no, era la discussione tra il monologo e le province. Vabbè, esatto, proprio, che proprio, poi stiamo bene giorno e notte. È notte. E che non dico niente. Non aggiungiamo altro. L'abbiamo trovata? Qual è? L'abbiamo trovata? No. Luca, cosa ti è successo? Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Sei spacciato. Che sei? Ma meravigliosa. Sei spacciato. Me la ricordo. Se vuoi troviamo. Se vuoi c'è anche Silvia. Lo sai che Luca si buca ancora. Guarda, è meglio, posso dire. Allora però scusate. Ho una proposta. Sì. Lorenzo Nespoli, regia. Segnale, fate per sentire. Quirinale. Quindi è successo questo. È un Quirinale, mito. Quella riformina. Senso. Del nostro voto è l'assassina. E dentro l'urna c'è una manfrina scritta da Renzi e la sua bambina, con troppi danni su quei pochi fogli spacciati al mondo come consigli. No, basta. Ecco, vedi, io stesso ieri, dovete capire che su Libero pubblicano queste parodie, no? Come chiamarle, queste nuove cose anti-renziane sulle note di canzoni famose. C'era anche il coccodrillo come fa. Comunque la rete è impazzita. La rete è impazzita. Cioè Milan che canta in una maniera divina. Poi scopre anche che è arrivato primo ad un concorso. Terzo, da bambino, sì, ma canta in maniera divina. E poi è partito. Ma dove lo trovi? Ma no, ieri la carta costa era questa. E allora come potevo spiegarla se non così? Dovevo. Questa è la carta canta. Dovevo cantarla. Mi hanno detto sei il concitavurst dell'informazione. ma va bene così. Mi hanno detto anche di peggio. La voce costa e tutte queste quisquiglie. Grandioso. Vabbè, ricomponiamoci. Allora, io vi voglio chiedere questa cosa. Siccome sulle pensioni la mia idea è che basta, bisogna chiedere i sacrifici a tutti, e quindi se sono stati chiesti a chi, ai giovani che non trovano lavoro, a quelli che dovevano andare in pensione, li abbiamo esodati, no? Li abbiamo creati come categoria, non vedo perché con dolore non bisogna chiedere i sacrifici anche ai pensionati. Il problema qual è? Che ci sono dei politici che i sacrifici non li fanno, e quindi siccome il pesce puzza dalla testa non si accetta, e questo anche giustamente, che vengano imposti i sacrifici. Ma secondo te, Luca Dini, vanno dati dietro i soldi a tutti oppure no, i pensionati? Beh, guarda, cioè, è un discorso difficile perché va a colpire persone vere e con problemi veri. Detto questo, l'enorme problema italiano purtroppo sono i giovani che non trovano lavoro. Quindi da qualche parte bisogna che qualcuno rinuncia a qualcosa. Cioè anche perché si vuol togliere ai pensionati che hanno 5.000 lordi o 3.500 lordi, non quelli che hanno magari 800 euro di pensione. Questo no. E allora togliamoglieli. Poi è pesante, difficile, cioè, voglio dire, non fa piacere a nessuno, però bisogna che chi soffre in questo modo capisca che chi viene dopo non avrà niente di tutto questo. Sì, sì. Tu che dici, Paola? Ne parlerai? Ne hai parlato ovviamente. Ne parliamo e toccheremo questo argomento. Sì, lo facciamo, guarda, già nel pomeriggio, ma soprattutto nella parte dedicata all'economia. Si cammina sulle uova, sì, con gli scarponi. Sì. Ecco, questo solo posso dire. Perché da una parte si dice togliamo, e c'è, cioè, soprattutto non c'è niente più in una cassa, allora qualcuno deve contribuire, no? Allora è giusto togliere a chi ha di più. Io comincerei a togliere a chi ha tanto di più. Appunto, tanto. No, questo ma tanto, sì, tanto, ma infatti è il famoso pesce. È chiaro, è il pesce che puzza dalla testa. Non cioè, perché deve essere una punizione, attenzione, perché chi è anche arrivato a 5.000 euro lordi di pensione, magari veramente ha faticato una vita intera, ha versato tutti i suoi contributi e, voglio dire, magari fa il nonno che aiuta i figli che non lavorano e i nipoti che studiano. Ma non c'è dubbio, la questione è molto molto dibattuta. È chiaro che non possiamo andare porta a porta a dire: scusi, lei che cosa ne fa di questi soldi? Ah, aiuta i nipotini? E beh, allora glieli lasciamo. Scusi, lei che cosa fa? Ecco, questo chiaramente no. Però il tema c'è. Io devo chiudere, voglio solo ricordare la copertina di Vanity Fair che ho qui. Ho Vincent Cassel. Ma è così figo, Paoletta, Vincent Cassel. Intrigante. Ecco, infatti, intrigante. Tutte le donne dicono bravo così, direttore. Cioè non è figo proprio come lineamenti, bello, però intriga, che per una donna abbiamo capito cosa vuol dire. Va bene, intriga, ma voglio segnalare soprattutto un servizio molto bello, l'ho visto anche sulle Iene, di quelli che sono i bracconieri dei rinoceronti per soprattutto in Namibia, li uccidono per prendere il corno perché dicono che bastardi. Ha dei poteri bastardi. Ecco, mi associo anche a Paola Saluzzi e c'è un bel servizio su questo, su Vanity Fair, proprio sulle tracce di questi bracconieri bastardi che uccidono i rinoceronti. Ci dobbiamo fermare qui, però giuro che non canterò più. No, ti vogliamo canterino. Abbiamo la sigla per il mitico Luca Dì. Abbiamo te che canti. Ah, vabbè, Luca si è inguaiato in una maniera che non lo sa. Intanto vi saluto, vi mando un abbraccio. Ecco qua, chiudiamo ancora così. Luca. Sei adesso Luca, non si saprà mai. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci, quarta tappa del giro ieri, colorata d'azzurro alla Spezia e oggi, primo importante arrivo in salita, sentiamo. Quinta tappa dalla Spezia alla Betone, 150 km che daranno la prima vera scossa al Giro d'Italia, anche se ieri è già successo molto, tanto più di quanto ci si potesse aspettare, da una frazione solo apparentemente alla portata di tutti. Ieri abbiamo applaudito il numero di alta scuola messo in mostra da uno dei talenti più interessanti del ciclismo nostrano, Davide Formolo, prima vittoria da professionista. Per questo 22enne veneto portacolori dell'americana Canon del Garmin, che si è lasciato tutte alle spalle, lui che davanti a sé ha un futuro certamente roseo. A rimetterci le penne è stato il colombiano Rigoberto Urán, che dei big ha perso più di 40 secondi. Nuova maglia rosa, anche se resta sempre ad un australiano e sempre in casa Orica Green Edge, da Michael Matthews a quelle di Simon Clark, australiano cresciuto in Toscana. Oggi la Betone è il primo supremo giudice questo giro. Contador Scalpita, Aru non è da meno, Sornione il Tasmaniano Ricci Porte che gioca a fare il terzo incomodo. Tappa da non perdere, viste le premesse di ieri, anche oggi se ne daranno di santa ragione. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, La Spezia. Voci dal giro in collaborazione con. Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:18 minuti, cari ascoltatori. Ebbene sì, siamo pronti a leggere i giornali. Parleremo però oggi di questo reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una marcia e lo vuole. Sel lo vuole, si cerca qualcuno del PD che lo voglia, cioè questa idea di dare 780 euro a chi non ha un lavoro. tutti i maggiorenni, diciottenni, italiani o cittadini comunitari in attesa che trovino un lavoro. È una misura, un ammortizzatore sociale, sì, mentre sto morendo l'acqua mi va di traverso, un ammortizzatore sociale è una misura giusta per alcuni, per altri è un'elemosina di Stato, così ha detto per esempio Salvini. E qui si produce anche una cosa un po' strana, perché mentre Salvini dice così, Maroni, che sarà ai nostri microfoni, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, dice: noi lo sperimenteremo in Lombardia. Quindi si litiga anche all'interno della Lega su questo tema. Avremo ospite anche la senatrice Nunzia Catalfo Alfo del Movimento 5 Stelle, Giuliano Cazzola, che è un ex parlamentare, un economista liberale. Insomma, discuteremo di questo dalle 8:15. Ora i giornali, per l'appunto. In questo mercoledì 13 maggio i titoli: Il Sole 24 Ore apre sulle pensioni come altri quotidiani. Pensioni, subito piano rimborsi per 3,5 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. Per Libero: scatti delle pensioni, ecco chi li avrà e chi no. Il giornale è polemico su questo tema. Ricchi a loro insaputa. L'ultima invenzione del premier: i pensionati con 1.800 euro al mese sono dei paperoni da spennare. E poi la scuola, per il Corriere della Sera: la battaglia sulla nuova scuola è il titolo di prima pagina. Repubblica: Renzi, basta con la sinistra masochista sulla scuola, scontro governo sindacati. Il Messaggero: caos scuola, scrutini a rischio. Anche La Stampa: pronti a bloccare gli scrutini. È la minaccia di alcuni sindacati della scuola. Scrutini a rischio, blocco anche per il Secolo XIX. L'apertura del Fatto Quotidiano invece è una vicenda totalmente diversa. La sentenza sulla discarica dei veleni. Parlano alcuni della giuria popolare che ha mandato assolto Montedison e dicono ora: non eravamo sereni, se condanniamo Montedison quelli vi portano via tutto. Questi parlano alcuni della giuria popolare che non li hanno condannati, li hanno assolti, e dicono: non l'abbiamo fatto ma non eravamo sereni nella pronunciare la sentenza. Allora, dicevamo, intanto si litiga ed è un litigio in salsa leghista quello sul reddito di cittadinanza, perché Maroni lancia il reddito di cittadinanza e Salvini lo boccia, elemosina di Stato. Questa è la disfida con il governatore lombardo sulla scia del Movimento 5 Stelle. Dice e annuncia in Lombardia: lo faremo utilizzando i fondi europei. Il Corriere dedica con Marco Cremonesi una pagina a questo. La proposta a livello nazionale nasce dal Movimento 5 Stelle, Maroni la segue, ma anche Libero dice: reddito di cittadinanza, Maroni fa il grillino ma litiga con Salvini. Questo è il titolo di Libero a pagina 8. Beh, vedremo, è interessante, oltre a discutere la proposta in sé, anche questa disfida politica all'interno della Lega. Ma come detto, ne parleremo alle 8:15. Voglio partire dalla lettura di un'intervista interessante che viene fatta ad Amartya Sen. Amartya Sen, Nobel per l'economia, economista, insegna economia e filosofia ad Harvard negli Stati Uniti, e fa un'intervista al Corriere della Sera. È in Italia, domani parteciperà a un dibattito a Milano. Danilo Taino lo intervista per il Corriere e parla di Expo. Sì agli OGM contro la povertà, Expo parli di economia e fame. Così dice Amartya Sen a pagina 25 del Corriere: all'Expo sarebbe meglio parlare di fame piuttosto che di cibo. Lui, che è uno dei maggiori pensatori sui temi dello sviluppo, 81 anni, viene intervistato dal Corriere e dice a Amartya Sen: nel mondo continua a esserci un problema di fame endemica, non forte abbastanza per uccidere, ma forte abbastanza per indebolire le popolazioni, debilitare i bambini, i giovani e deprimere la produttività economica delle persone. È una questione di fame, ma non necessariamente di produzione di cibo. Il problema è la povertà. Se non la si rimuove, ci saranno sempre fame e inedia. Nel senso che il cibo c'è, chiede il Corriere? Sì, la questione della produzione alimentare è ampiamente esagerata. Nei decenni è cresciuta molto più della popolazione e può crescere ancora. Ma il meccanismo attraverso cui ciò può avvenire è economico. Devono aumentare i redditi delle popolazioni per metterle in grado di comprare. Ciò farebbe crescere i prezzi agricoli, darebbe reddito ai coltivatori, si andrebbe verso una produzione maggiore e più ricca. Non siamo di fronte a una crisi della produzione alimentare o all'impossibilità di avere cibo. Poi Amartya Sen dice e parla degli OGM, c'è la polemica anti-OGM di Vandana Shiva, militante indiana che ha un ruolo di rilievo anche all'Expo, e dice Amartya Sen: apprezzo Vandana Shiva per la sua preoccupazione riguardo al benessere degli altri, ha ragione nell'invitare a stare attenti quando si aumentano le rese agricole attraverso gli OGM, ma le conclusioni che ne trae, cioè la sua opposizione alle nuove varietà, non sono logiche, non sono conseguenti. A creare problemi non sono le tecnologie, ma la cattiva gestione del territorio. Possiamo benissimo combinare le nuove tecnologie con rispetto della biodiversità. E che ne pensa lei del cosiddetto chilometro zero? Risponde Amartya Sen: dal punto di vista dell'economia è un concetto che non so da dove venga. Certo, ogni sabato vado al Farmers Market, ci trovo prodotti buonissimi che i contadini portano direttamente, ma non ho niente contro un buon pane fatto con il grano canadese. Ecco, il commercio internazionale quanto è importante per battere la fame? È di grande importanza, produce la crescita economica necessaria alla creazione di benessere, come indicava Adam Smith. Però Adam Smith diceva anche che tra l'altro l'elemento importante è lo sviluppo delle capacità umane. Qui ci sono cose che solo i governi possono fare. Beh, molto interessante, insomma, l'intervista è ancora più completa. Pagina 25 del Corriere, l'economista Amartya Sen parla di Expo, di fame, di lotta, di OGM, di tutte le tematiche che sono molto molto in discussione nel mondo. Ricordate, parliamo un po' di cronaca, se volete anche cronaca nera, ricordate il caso del ragazzino minorenne che è stato violentato con un compressore a Napoli, uno scherzo finito male, una presa in giro, non si era ben capito. Beh, lo ricordate le polemiche. Ora c'è stata la prima condanna. Viviana Lanza, pagina 12 del Messaggero, racconta che la persona, Vincenzo Iacolare, 26 anni, accusato di aver seviziato il piccolo Enzo, 14 anni, con un compressore, è stato condannato a 12 anni di carcere. Tra l'altro il piccolo Enzo in questi giorni è ancora in attesa di un nuovo intervento chirurgico e dopo aver rischiato la vita ha perso 2/3 di intestino e ha una salute che non sarà mai più come quella di prima. Inizialmente nel capo di imputazione, accanto alla violenza sessuale, la procura contestava il tentato omicidio, che però non è stato poi contestato, ma 12 anni è la condanna in primo grado per quell'atto alla persona maggiorenne che è stata fermata per questo. E a proposito di cronaca, che dire? E questo siamo il paese dove ogni tanto i furbetti del quartierino vengono scoperti. Che sono tra l'altro di quelli che mi fanno più i finti invalidi, i finti ciechi, i finti sordi, che tra l'altro tolgono soldi a quelli che sono ciechi veramente, sordi veramente, che hanno bisogno veramente, no? Di un'assistenza e di una legittima legittimo aiuto dal punto di vista economico da parte del welfare statale. I finti invali, mamma mia, quante schiaffoni gli darei, oltre a togliergli i soldi, oltre a condannarli, una serie di schiaffoni, proprio le pene corporali. Finti ciechi, sordi e paralitici, arrestato un furbetto al giorno, leggo sul giornale, Simone Di Meo, l'ultimo blitz a Napoli, malata di cuore, malata tra virgolette, incassava gli assegni di invalidità e arrotondava come escort. Arrotondava come escort e noi le davamo l'assistenza come malata di cuore. Il certificato parlava di gravi patologie cardiache e respiratorie, sindrome fobica e ossessiva. Maria invece stava benissimo e per arrotondare l'assegno di invalida civile che l'INPS le passava sulla base di un certificato falso, faceva la escort su un sito di appuntamenti a Napoli. Si pubblicizzava con tanto di foto e tariffario promettendo scintille, scintille. Eccolo qua, il lago pescosissimo per PM e carabinieri, quello in cui sguazzano ciechi che ci vedono benissimo, paralitici che corrono per prendere l'autobus, muti che cianciano al telefono, sordi che fanno la spesa, infartuati che lavorano nei cantieri. Ripeto, a schiaffoni! Pene corporali per queste persone che tolgono, oltre a rubare, tolgono i soldi a chi ne ha davvero bisogno. Poi i conti pubblici sono sono nel dissesto. Vabbè, ma è il momento e non è questo il premio Mani sul Volante, che però ci ha fatto già abbastanza incazzare, ma il premio Mani sul Volante, quello che ci fa incazzare davvero, è quello che scrive Libero con Alberto Samonà a pagina 17. Ricordate il viadotto in Sicilia crollato, in siciliani se lo ricordano bene, visto che è ancora crollato, e racconta Libero, alcuni hanno scoperto l'ebbrezza dei treni siciliani, alcuni chiedono da Palermo a Catania di ripristinare i voli aerei, alcuni si buttano per strade perigliose e diverse. Ebbene, sappiate che dopo un mese dal crollo in Sicilia, mentre in Giappone in una settimana dopo il celebre terremoto in una settimana costruirono un ponte, in una settimana, in Sicilia da un mese quel viadotto è crollato e non si è mossa foglia. Tutto è fermo. Tutto fermo. È la burocrazia, bellezza. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan è l'impresentabile dell'informazione. Sì, sono l'impresentabile dell'informazione. Sugli impresentabili tra poco diremo qualcosa, perché tutti a dire ci sono degli impresentabili, è vero, abbiamo messo degli impresentabili, ma nessuno che dice il nome e il cognome. È una cosa per cui uno non sa chi siano questi impresentabili, può solo dedurlo da alcuni articoli. Però vabbè, ma andiamo con calma. Prima alla scuola. Allora, c'è stato il confronto, o meglio lo scontro si potrebbe dire, tra governo e sindacati, tanto che si è partorito che cosa? Beh, nessun passo di riavvicinamento, e anzi la minaccia del blocco degli scrutini da parte di alcuni sindacati. Racconta per esempio la cronaca Claudia Voltattorni a pagina 2 del Corriere della Sera. Scontro governo sindacati, a un certo punto dai toni gentili e pacati il clima si è fatto più caldo e qualcuno ha alzato molto la voce, qualcuno gli ha risposto: non ci metti paura. Questo è il confronto a Palazzo Chigi. Da una parte il sottosegretario del Consiglio Claudio De Vincenti, le ministre delle riforme, istruzione e pubblica amministrazione, cioè Boschi, Giannini e Madia, il ministro delle infrastrutture Delrio, dall'altra parte i leader di CGIL, CISL e UIL, Camusso, Furlane, Barbagallo, i sindacati di categoria, le associazioni di presidi e docenti. Non era presente Matteo Renzi, ma certo la minaccia alla fine è blocco degli scrutini. Cobas e Snals hanno già promesso questo boicottaggio, mentre CGIL, CISL, UIL e Gilda lo appoggiano. Per il sottosegretario De Vincenti è irresponsabile. Il sottosegretario all'istruzione Faraone viene intervistato da Repubblica e dice: i sindacati rischiano di passare dal consenso al dissenso, hanno sbagliato a soffiare contro i test invalsi, e tra poco vedremo, e con gli scrutini di fine anno ora non si scherza. Ciò che hanno richiesto hanno ottenuto: scatti di anzianità già in autunno, poteri del preside, abbiamo dato segnale di disponibilità straordinaria, assoluta, chiara. Da loro assoluta chiusura, siamo noi a non essere ascoltati. Questa è la voce del ministero, mentre Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, dice: stanno cercando di farci perdere tempo, vogliono superare la scadenza delle regionali per poi puntarci la pistola alla tempia. Così su Repubblica. Come vedete le posizioni sembrano inconciliabili. Come detto, c'è stato il boicottaggio anche dei test invalsi. Secondo alcuni dati il 23% di quelli degli studenti non si sono presentati a fare questi test invalsi. Alcuni hanno protestato dicendo: non siamo delle crocette, perché i test si fanno a crocetta. I test di valutazione boicottati dagli studenti, uno su quattro non li fa, il ministero dice è inaccettabile. Questo è il titolo di pagina 4 di Repubblica. Certo, la tensione sulla scuola è tale che Renzi, secondo il retroscena, perché queste sono le questioni sindacali, ma poi ci sono le posizioni e le conseguenti reazioni politiche. E allora leggete con attenzione il retroscena di Francesco Bei a pagina 2 e 3 di Repubblica. Renzi a questo punto vuole andare avanti come un treno e si crea quel meccanismo perverso per cui Renzi dice: beh, c'è troppo boicottaggio, allora cosa facciamo? Poniamo la fiducia al Senato anche sulla scuola, come sulla legge elettorale. E vediamo che è il più forte, questo è il segnale politico. Come forse più del Jobs Act, la buona scuola è la bandiera che Renzi ha issato sul pennone di Palazzo Chigi, scrive Francesco Bei, e il muro alzato dai sindacati Nonostante la riapertura della Sala Verde, provoca una reazione speculare nel Premier. Minacciare il blocco degli scrutini, boicottare i test invalsi è inaccettabile. A che punto sono arrivati? Confida ai suoi Renzi. Qualsiasi modifica accettassimo, ormai sarebbe giudicata insufficiente. Tanto vale andare avanti. E questo andare avanti vuol dire porremo la fiducia, secondo Repubblica, su questo provvedimento, e dunque lì ci saranno le solite accuse, fascismo, eccetera. O comunque la vediate, lo scontro politico c'è. Maria Teresa Meli fa retroscena su Renzi a pagina 3 del Corriere e racconta invece che certo Renzi vuole andare avanti, ma Renzi è anche un po' preoccupato per questa vicenda, perché è il combinato disposto che lo preoccupa. Cioè, a meno di 20 giorni dalle elezioni regionali, ha molti professori e il mondo della scuola contro, dipendenti del pubblico impiego in subbuglio e pensionati che attendono di capire se verranno restituiti a chi i soldi, in allarme. E questo è un problema, scrive il Corriere, anche se Matteo Renzi ostenta la sicurezza di sempre. Ma del resto la scuola per lui è fondamentale, con l'incontro dei sindacati è andato male. E dice allora probabilmente la Camusso dirà sempre di no, ma forse con la CISL abbiamo un atteggiamento diverso. E Renzi dice io so chi sta soffiando sul fuoco e sta sperando che tutte queste proteste si coalizzino contro di me. È Massimo D'Alema, il nemico è stato trovato. Il Premier è convinto che c'è chi nel PD stia provando a indebolirlo, c'è gente che non accetta ancora il risultato delle primarie. Il risultato quindi è la risposta, dobbiamo conquistare 6 regioni su 7. E qui ecco come la protesta della scuola si intreccia con la politica. Comunque vedremo se ci sarà il blocco degli scrutini. Certo, c'è sulla scuola una notizia che invece è un po' diversa, ma la metto così per assonanza qui. A scuola arriva l'ora di cultura zingara, scrive Libero, e succede a Pisa in una scuola media. Chiara Giannini, in una scuola media l'integrazione è diventata materia di studio. Nell'ora di italiano si insegna la cultura rom. Accade a Pisa, il comprensorio Fucini, dove grazie a una proposta presentata da un'associazione che opera nell'ambito della società della salute, la professoressa Marta Trafeli fa questo laboratorio in cui si insegna integrazione. Polemica, come potete immaginare, e vabbè, la solita Salvinata. Matteo Salvini dice: a quando insegneranno i corsi di accattonaggio? Questo scrive Libero a pagina 11. Oh, eccolo qui, il tema degli impresentabili. Allora, c'è questo tema molto chiaro. Ieri Renzi è andato a Repubblica TV, tutta l'intervista, sono 2 pagine molto intense, le potete leggere a pagina 6 e 7, e parla anche di queste liste in campagna, dove alcuni giornali, soprattutto il Fatto Quotidiano, ha denunciato per prima ci sono degli impresentabili. È sicuramente una contraddizione, non voglio giustificare, credo che da questo punto di vista ci siano alcuni candidati che non solo sono impresentabili, ma ingiustificabili. Così ha detto Renzi. Detto questo, la partita è tra Caldoro e De Luca e le liste del PD sono pulite, ma ci sono alcuni ingiustificabili. Lo stesso ha detto De Luca, è vero, nell'ultima ora sono entrati degli impresentabili, e io stesso dico non votateli. Oh, c'è un piccolo particolare, nessuno dice i nomi e i cognomi, nessuno. De Luca non li dice, Renzi non li dice, ma se sono impresentabili e non li dovete votare, dicono ai loro stessi elettori, potete gentilmente dirci nome e cognome, così chi vuole votare in campagna De Luca prende nota? E infatti chi sono questi impresentabili? Beh, il Fatto Quotidiano ne ha proposti alcuni, tipo questo Carlo Aveta, dalla destra, da Predappio, ora con De Luca. Ma Carlo Aveta viene intervistato da Repubblica, da Concita Sannino, a pagina 8, e dice io impresentabile, imbarazzato per me Matteo. Ma non credo, onestamente non credo proprio, forse ce l'ha con qualche altro persona, qualche indagato, non so, qualche signora, boh. Io che problemi ho? Sì, ero con la destra, ma quelli di centrosinistra dovrebbero dirmi grazie. La speranza prima era Berlusconi, ora è Renzi, e ormai non esiste più la destra e la sinistra. Ce n'è un altro che il Fatto Quotidiano ha presentato come impresentabile, tale Enrico Maria Natale, il cui padre è stato in passato arrestato per collusione alla camorra. Poi si racconta, però, sottoposto a sequestro di beni, è stato prosciolto e risarcito per ingiusta detenzione. E allora lui dice, infatti, questo Enrico Maria Natale, intervistato da Vincenzo Iurillo al Fatto Quotidiano: io impresentabile, fino a quando non leggo il mio nome non credo di dover rispondere a niente. Io non sono impresentabile. Le questioni giudiziarie dei miei familiari sono state ampiamente chiarite. E direi a Renzi: guarda la tua lista PD e non guardare altro. Ma De Luca lei l'ha incontrato? No, non ancora. Sono occupato in altre iniziative. Comunque io non ho niente da dire. E finché non dicono il mio nome e il mio cognome, e ha ragione, lo dico io, ha ragione. Ma perché dovrebbe essere considerato impresentabile uno se non gli si dice questo con nome e cognome è impresentabile? Infatti Filippo Facci oggi la presenta così sulla prima pagina di Libero: impresentatarm. Gli impresentabili sono: 1. Quelli condannati in giudizio. 2. No, quelli in appello. 3. No, quelli in primo grado. 4. Basta che siano rinviati a giudizio. 5. Indagati. 6. Sono impresentabili anche gli assolti per prescrizione. 7. Anche gli assolti e basta, ma coinvolti. 8. Quelli che sarebbero anche gigli di campo, ma sono amici, parenti, sodali di un impresentabile. 9. Quelli che in mancanza d'altro sono nominati in un'intercettazione. 10. Quelli che i probiviri del partito e lo statuto del partito, il codice etico del partito e il comitato dei garanti del partito far risultare impresentabili. Oppure 11. Sono quelli a cui allude vagamente Saviano. 12. Sono quelli sempre innominati che i giornali definiscono nostalgici del Duce. 13 sono quelli sempre innominati, di cui parlano anche il commissario Cantone e la senatrice Capacchione. 13 sono quelli menzionati da qualche giornale. 14 sono i Volta Gabbana. 15 gli impresentabili sono quelli che sono impresentabili, secondo me. Boh, chi sono? Forse Mauro Meazza è impresentabile, no? Non lo so, no, Mauro Meazza è presentabilissimo, buongiorno. Io veramente non mi sono neanche presentato. No, infatti, però tu mi hai presentato. Ecco, ma sei presentabilissimo. Adesso tu mi hai presentato, quindi io sono presentabile. Bilissimo. No, tu sei presentabile? Spero. No, è importante che tu sia presentabile. Qualche mattina oggi, quando mi sveglio storto, non troppo, ecco. Guarda, è importante che tu oggi invece ti renda presentabile, perché dobbiamo ritirare la pagella a Bruxelles. Ah, giusto. Quindi mettiamoci in ordine. Ci mandano, no, se ci mandano adesso, noi scherziamo, Sicilia, ma è importante, ci presentano le raccomandazioni. Sì, sì, sì. Allora, se vuoi sapere, dovremmo prendere la sufficienza, la sfanghiamo. Sei politico? Ciao. È un sei pensionistico più che altro, perché c'è questo problemuccio. Non posso sottendere gli scrutini lì, fa lo sciopero degli scrutini lì in Europa. Dei scrutini in VAT, non credo proprio. Però possiamo provare a chiederglielo. Guarda, io adesso farei così: leggerei innanzitutto Beda Romano, sì, sul 24 ore, oggi a pagina 3. Ci dice anche quali materie, insomma, su quali materie siamo debolucci, che ci hanno fatto un elenco, ovviamente le tasse, cioè lì siamo fortissimi, ma per loro ci considerano appunto un po' deboli perché siamo troppo forti. Speriamo che sia così anche per le squadre italiane in Europa, ma insomma vabbè. Poi c'è il problema dell'assetto del credito, il mercato del lavoro, insomma dobbiamo ritirare la pagella, quindi renditi presentabile, mettiti in ordine, poi quando torniamo, che ci hanno dato la pagella, puoi prendere le 16 pagine che oggi sono allegate al Sole 24 Ore dedicati agli sconti di Unico, quindi modello unico della dichiarazione dei redditi, tutti gli sconti, le novità di quest'anno che ti spieghiamo con il Sole 24 Ore, così almeno, visto che lì ci hanno detto che siamo un po' troppo forti, magari si riesce a ridurre qualche cosa del carico con l'aiuto del Sole 24 Ore. Senti, i due urini non è che li vuoi mettere nel dopo Expo? Vabbè, se proprio devo. No, perché ci sarebbe una cosa interessante, l'ho letto oggi sul Sole naturalmente, perché si sta pensando a un coinvolgimento del governo, ma non so se vuoi entrare anche tu, magari lo segnaliamo, insomma, al commissario Sala, no? Vuoi, possiamo. Ci stai, ci metti questi, mettiamo questi, dai, due, un euro tu, un euro io, vediamo. Ecco. Facciamo questa società inedita per Expo. Ecco, e poi ti vorrei dare una cattiva notizia. Tu ti aspettavi il bollettino precompilato, sì, per la TASI? No. Sì, non ti ricordi, sì, sei dimenticato. No, va bene. Allora, la TASI, cioè l'imposta sui servizi indivisibili, dovevano darci quest'anno il bollettino precompilato. Allora, vabbè, per l'acconto non si può, non ci riescono, è troppo un pasticcio. Insomma, c'è un bisticcio di norme nazionali, locali, leggi già ne trovati nelle pagine di norme e tributi, così capisci. Però, insomma, non ce lo mandano. Non ce lo facciamo, niente, facciamo dei conti un po' così noi spannometrici, gli diamo qualcosa, poi dopo vediamo, poi ci arrangiamo. E con questo, caro mio, è tutto. Ti vorrei in ultimo ricordare sulla voluntary disclosure, guarda che è importante. Attenzione ai soggetti collegati. Ah. E qui mi taccio. Leggi norme e tributi che ti farà bene. Traffico! Alessandro Milan, il Francesco De Gregori dell'informazione. Dopo generale si sa, è cantata in diretta. Oggi non canto, ve lo prometto subito, potete stare tranquilli, non spaccherò i vetri delle vostre macchine. Allora, le pensioni è un altro tema molto molto in alto nelle cronache dei giornali e l'apertura del Sole, perché ormai lo sapete, si deve decidere a chi restituire il blocco dell'indicizzazione di 2 anni delle pensioni, che è stato bocciato dalla Consulta. Tutti i dettagli, Davide Colombo e Marco Rogari raccontano che probabilmente ci sarà un piano rimborsi per quest'anno di 3,5 miliardi. Chi prenderà questi soldi? Si dice che la soglia di 3.500 euro lordi al mese di pensione è la soglia oltre la quale non verrà rimborsata l'indicizzazione, ma voglio dire, sono tutte per il momento indiscrezioni, forse venerdì, forse martedì ci sarà il decreto. È interessante che su questo tema, cioè la Consulta, Renzi è arrabbiato, ha sempre parlato poco. Ieri ha parlato pubblicamente per la prima volta. Francesco Verderami racconta, pagina 5 del Corriere, che è un Renzi molto arrabbiato, cioè la definisce questa una decisione della Consulta politica e a orologeria. Tanto è vero che è uscita il giorno in cui c'è stato lo sciopero della scuola e circola questa battuta di Renzi che avrebbe fatto questa proposta a Padoan, e cioè: ma non possiamo tagliare i fondi alla Corte e recuperare da lì i soldi da dare ai pensionati? Cioè tagliare i fondi alla Corte Costituzionale, che è la Corte che ha bocciato il provvedimento. Tra l'altro sulla Corte Costituzionale ci sono 2 articoli interessanti. Il primo è proprio questo di Verderami, che dice: a questo punto, siccome manca un giudice da eleggere da parte del Parlamento, Renzi vuole un renziano, doc, uno fedele. E anche qui circola la battuta: così la prossima volta che fanno una sentenza da 20 miliardi di impatto sui costi dello Stato, magari mi avvisano un po' prima. Mentre un altro articolo che profila uno scenario diverso è di Liana Milella su Repubblica, pagina 12, ed è questo: per la Corte Costituzionale il PD offre un patto a Grillo e al Movimento 5 Stelle a dire: votate un giudice vostro, e cioè indicate un giudice che vorreste eleggere alla Corte Costituzionale, in modo da riavvicinare il PD al Movimento 5 Stelle. Comunque sui pensionati vedremo che succede. Notizia di cronaca: purtroppo c'è un nuovo caso di Ebola in Italia. Questo lo raccontano tutti i giornali. Margherita De Bacca, pagina 21 del Corriere della Sera, è un medico che ha lavorato per Emergency in Sierra Leone. È un infermiere, per la verità, non un medico, ma un infermiere. È tornato, è sardo, ha 37 anni, è stato ricoverato allo Spallanzani. Oggi saranno i test di conferma, ma se confermato sarebbe il secondo caso, dopo un medico che peraltro è stato poi curato ed è guarito, sempre di Emergency. Sarebbe il secondo caso. C'è anche un'intervista a Cecilia Strada, che è la presidente di Emergency, a pagina 21 del Corriere. Dice: è un lavoro massacrante, ma sono state seguite tutte le procedure. Interessante questa intervista, e purtroppo anche questo nuovo caso di Ebola in Italia. Vi faccio notare, e questo ve lo faccio notare anche su Periscope, visto che siamo in diretta su Periscope e qualcuno qua mi scruta, e cioè Lorenzo Nespoli, che è stato venduto un Picasso, e cioè è stato venduto il dipinto Donne di Algeri da Christie's, ed è stato battuto all'asta per 179,3 milioni di dollari. Se lo avete preso voi, è il momento di farvi avanti e svelarlo. 179,3 milioni di dollari, Donne di Algeri. Ma siamo al momento della carta costa. in diretta appunto su Periscope, e siamo sul Corriere della Sera, pagina 6, dove si racconta questo dramma di Fitto. Ma che fine ha fatto Raffaele? Ieri nessuno riusciva a sapere dove fosse. Ore 16, momenti di ansia. Ci sono notizie d'agenzia che danno per imminenti la scissione, la formazione di nuovi gruppi parlamentari, e Fitto scompare. Perché il capo non si trova? All'ennesimo tentativo di contattarlo, il Corriere finalmente lo raggiunge e la sua voce è un impasto di ansia, tristezza, questioni politiche. Fitto, che succede? Che succede? Ho perso l'iPad. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi parleremo di reddito di cittadinanza. Allora, vogliamo parlare di questo strumento che è stato lanciato soprattutto dal Movimento 5 Stelle, ora appoggia in Parlamento anche alcuni di SEL, o SEL tutta, e alcuni del PD. È davvero fattibile? Di cosa si tratta? Di che provvedimento è? Cercheremo di capirlo. Il Movimento 5 Stelle ha fatto anche una marcia nel weekend e sentiamo Beppe Grillo sul tema. C'è il reddito di cittadinanza, bisogna che la gente sappia che c'è un'evoluzione sul tema lavoro, rapporti, che cambierà il senso di cosa dovrà essere il lavoro fra 10 anni, quando il 50% dei lavori scompariranno entro i prossimi 15 anni. Bisogna trovare, anticipare adesso e trovare una sistemazione di capire che cosa diventerà il lavoro fra 10 anni. Allora, che cos'è il reddito di cittadinanza? È una proposta che il Movimento 5 Stelle dice non è una forma di assistenza sociale passiva, ma è una forma di protezione sociale, cioè garantire a coloro che non arrivano a 780 euro al mese, questa è stabilita come soglia di povertà, 780 euro al mese, questa cifra, garantirla a tutti a 18 anni in su, ovviamente italiano o cittadino comunitario, perché l'Europa su questo non fa scherzi, non è che può fare e può permettere distinzioni. Ne vogliamo parlare? È davvero fattibile? È elemosina di Stato, come dice invece Salvini della Lega e come sono le critiche di molti? È fattibile anche con i conti pubblici? Voglio salutare la senatrice Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle, che è prima firmataria di questo disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Benvenuta. Grazie, senatrice. Buongiorno a tutti. Così come saluto Giuliano Cazzola, una vita tra il sindacato prima, i partiti e il Parlamento poi, e esperto di questi temi. Cazzola, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e al suo ospite. E so anche critico, insomma, di questo provvedimento, tra poco ci spiegherà perché. Intanto, senatrice Catalfo, la cifra è questa. Perché avete individuato questa cifra di 780 euro sulla quale, mi sembra di aver capito, il Movimento 5 Stelle non transige? Sì, la cifra è questa perché ci siamo basati, come diceva lei prima, sull'indicatore Eurostat, che stabilisce che le soglie di rischio di povertà sono i 6 decimi del reddito mediano pro capite e italiano. In questo caso i 6 decimi del reddito è mediano, è 15.000 euro, i 6 decimi 9.360 euro, che diviso i 12 mesi sì, sono 780. Da quello abbiamo fatto riferimento ai coefficienti europei e abbiamo individuato il reddito per il nucleo familiare, che chiaramente cambia a seconda dei componenti del nucleo familiare, se siano essi maggiorenni o minorenni. Chi dovrebbe ricevere questo reddito di cittadinanza? Chi dovrebbe ricevere? Tutti coloro i quali stanno al di sotto di quella soglia, o per intero o come integrazione. Quindi se uno guadagna 500 euro, gli si dà l'integrazione per arrivare a 700. Vive da solo, perché 780 euro è la cifra che viene individuata per l'individuo che vive da solo. Sì, chiaro. Avrà un'integrazione di 280 euro. Molto, molto chiaro questo. Cosa risponde a chi dice, è un, come dire, adesso al di là delle questioni politiche, mettiamola proprio sulla questione dei conti pubblici, a chi dice ma è una forma di assistenza sociale passiva, perché voi dite di no? Allora, non è una forma di assistenza sociale passiva, in quanto si tende proprio a recuperare quei cittadini che in questo momento sono inattivi, che non lavorano o che hanno bassi salari, e cercare di portarli a fare una formazione che sia collegata, coerente con quello che è la richiesta del sistema produttivo italiano, cosa che in questo momento, come sapete, non c'è, e gli si fa fare ricerca attiva, viene seguito dagli operatori e viene reinserito nel contesto produttivo, viene reinserito al lavoro in modo tale che sia pronto per essere... Infatti voi dite la persona deve iscriversi ai centri per l'impiego, se rifiuta tre lavori perde il diritto a questo reddito di cittadinanza, quindi non è che può star lì a grattarsi la pancia. No, deve fare ricerca attiva per due ore, almeno due ore giornaliere, riqualificarsi, fare corsi di formazione o di riqualificazione e prestare non più di 8 ore, e c'è una ragione specifica per questo, non più di 8 ore settimanali di servizio per la comunità. Quindi fare anche lavori a favore della collettività. Esatto, però che siano coerenti con le sue competenze. Però le chiedo questo, senatrice Catalfo, la questione è, e ce la chiede anche un'ascoltatrice subito via SMS al 349-238-6666, se non ci sono i soldi per gli esodati, se non ci sono i soldi per capire se riusciamo a pagare tutti i pensionati, il blocco dell'indicizzazione, dove troviamo i soldi? E qualcuno, ha letto la stima di 17 miliardi l'anno che servirebbero per coprire questo reddito, dove li troviamo questi soldi? Sono 15 miliardi e mezzo per la misura, in linea con quello insomma che è stato scritto nell'ultimo rapporto Istat sullo sviluppo del paese, e 1,5 miliardi per il riordino dei servizi per l'impiego. Chiaramente i soldi, noi abbiamo individuato delle coperture che posso anche elencare, ma è anche una questione di intendimento politico, non dimentichiamo che 9,5 miliardi il governo Renzi li ha impiegati per il bonus 80 euro che in effetti poi a livello economico hanno inciso poco del prodotto interno lordo, e hanno inciso poco anche sulle famiglie povere. Quindi 9,5 miliardi le dice potevano essere dirottati, potevano su questo. Il resto delle coperture? Il resto si fanno attraverso dei tagli alla spesa della pubblica amministrazione, cose che abbiamo già individuato, o tagli alle spese militari, spese superflue, tagli alle auto blu, vi sono diverse, una tassazione maggiore ai giochi d'azzardo, che non è la soluzione, ma che ci fa ad esempio recuperare. Cioè, dice, negli 800 miliardi di spesa pubblica, se si vuole, si vanno a trovare nelle pieghe qualcosa. Certo. Però insomma, ecco, i punti ce li ha detti, sono gli altri stati investono. Ma è chiaro, sono punti sui quali si può discutere. Vediamo, le pongo le critiche che Giuliano Cazzola ha fatto anche di recente in un articolo che abbiamo letto. Giuliano Cazzola, cosa non va nell'impostazione del discorso della proposta del Movimento 5 Stelle? Allora, guardi, io innanzitutto riconosco che è un intervento, diciamo, di lotta alla povertà, un intervento di inclusione sociale necessario. E in Italia non c'è in maniera organica, c'è in maniera frammentata per alcune categorie di persone. Penso per esempio agli invalidi civili, che peraltro costano al fisco, cioè alla comunità, costano tra 17 e 18 miliardi l'anno. No? E posso anche dire che quando ero membro della Commissione della Povertà, presidenza di Pier Carniti, facemmo anche una proposta che venne accolta di reddito minimo sperimentale, che poi dopo sono abortì per... Che però è un'altra cosa, è un'altra cosa, cioè, è sempre molto difficile mettersi d'accordo su queste cose. Io la cosa che voglio dire è questa, è che lo critico innanzitutto dal punto di vista tecnico, questo il provvedimento dei 5 Stelle, in primo luogo perché per esempio anche sul versante del finanziamento non tiene conto per esempio di risorse che sono spese a queste finalità in qualche modo, che potrebbero essere assorbite dal reddito di cittadinanza. Trovo poi dal punto di vista economico particolare, ecco, che si faccia politica economica attraverso l'assistenza, sì, e non attraverso le politiche attive del lavoro. Cioè dice meglio incentivare incentivare il fatto che uno possa trovare lavoro, sì, piuttosto che dargli 780 euro. E trovo anche abbastanza singolare pensare che i centri per l'impiego, nella condizione in cui sono, possono gestire centinaia di migliaia di persone in questo modo. Sì, questo è un punto fondamentale. Ci sono inchieste di come ricordo il piano garanzia giovani finanziato con 1,5 miliardi dalla Comunità Europea, dove ci sono iscritti circa 500.000 giovani su una platea di interessati pari a 2 milioni. Di questi, dopo un anno, hanno trovato non un lavoro, ma un'opportunità di accostamento al mercato del lavoro. In larga misura sono tirocini, intorno a 10.000. No, ma devo dire che infatti i centri per l'impiego, ci sono varie inchieste in Italia di come non funzionino, però mi sembra aver capito che in questa proposta c'è appunto 1,5 miliardi da investire proprio per la riqualificazione dei centri dell'impiego. Cioè questa proposta funziona se funziona tutto. Bisogna vedere però cosa vuol dire anche riqualificazione dei centri per l'impiego. Io faccio notare anche un'altra cosa. Secondo me sono sbagliati anche i riferimenti, perché non si può prendere riferimento quelli che nelle statistiche sono indicati come poveri relativi, come indicatori della povertà relativa o della povertà assoluta. Questi indicatori nel nostro paese sono indici di consumi, sono persone queste, per esempio quelli che sono classificati come appartenenti alla categoria della povertà assoluta sono persone queste che hanno un reddito perché alla coppia viene riconosciuta una capacità di consumo di 1.000 euro. Ma ci sono tanti punti di domanda. Per esempio c'è chi ci chiede: ma il reddito di cittadinanza spetta, come dice la parola, ai cittadini, quindi anche a chi lavora? Ma sì, abbiamo detto, cioè se uno ha un lavoro, no, mi sembra di capire, senatrice Catalfo, che non gli permette di arrivare a quei 780 euro al mese, secondo voi va integrata la cifra con quello che manca per arrivarci. Però intanto, senatrice, altri ci dicono: scusi, al nord o al sud, insomma nelle varie regioni d'Italia, 780 euro non sono la stessa cosa, perché il costo della vita non è uguale al nord e al sud, lo sa anche lei. Come la mettiamo? Invece questa cifra sarebbe per tutti uguale? Questa cifra sarebbe per tutti uguale, sia al nord che al sud. Diciamo che è un discorso un po' lungo da fare, ma noi abbiamo assistito negli anni passati, nel secolo passato, all'industrializzazione, quindi allo spostarsi delle persone, dei cittadini da nord a sud. Non solo da nord al sud, proprio per la mancanza di reddito, ma anche anche dalle campagne verso le città. Ecco, garantire invece un reddito uguale per tutti aiuterebbe a volte anche lo spostamento da alcuni centri urbani verso le campagne, quindi verso attività produttive di altro genere, e quindi verso un tipo di visione diversa. Però le chiedo questo, mi faccia capire una questione sui numeri, scusi, i numeri, perché poi la politica si fa coi numeri. Voi, se siete da soli, non ce la fate, quindi i numeri non li avete. SEL dice che vi appoggia, però se non trovate qualcuno nel PD che vi appoggia, non ce la fate. Siete disposti per esempio a transigere sulla cifra? Perché alcuni del PD dicono forse se si discute di 300-400 euro al mese, forse sì. Ma guardi, transigere sulla cifra vuol dire non fare la misura. Adesso mi ricollego a ciò che ha detto il professore. La stessa Commissione Europea, nell'ultimo rapporto sull'Italia e sul welfare italiano, dice che abbiamo un welfare frammentato e corporativista, che manca, ci bacchetta perché manca un reddito minimo garantito, ci bacchetta perché non vi sono abbastanza investimenti nel sociale, continueremmo a protrarre un problema che in Italia non si risolve da anni. Ricordiamoci che Non stiamo parlando di una misura che non esiste in altri posti d'Europa. Parliamo di una misura che è presente in tutta Europa. In varie forme, in alcuni casi è il reddito minimo garantito, che è una cosa un po' diversa. Però le chiedo appunto... Oltre al reddito, se laddove è stato previsto un reddito leggermente più basso del nostro, però poi vi è... Però mi faccia capire, perché io devo concludere... Per la casa e altro. Sì, devo concludere, devo andare in pubblicità, poi avremo Roberto Maroni che in Lombardia annunciato, noi vogliamo farlo, che si è creato anche qualche diverbio all'interno della Lega, si prende una proposta del Movimento 5 Stelle ma gli ha creato qualche problema all'interno della Lega. Mi dica questo in conclusione, senatrice, i numeri, cioè con chi vi potete alleare, siete disposti a discutere col PD di questo? Siamo disposti a discutere con tutti coloro i quali vogliono davvero portare avanti questa misura, quindi, però certo. Con i vostri numeri, insomma, cioè nel senso io le posso dire che al momento la vostra, il tavolo non si è neanche aperto, quindi aspettiamo e vediamo che cosa il PD propone. Va bene, allora io vi devo salutare e vi ringrazio, la senatrice Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle e Giuliano Cazzola. Questo grazie è il reddito di cittadinanza. Tra pochi minuti avremo Roberto Maroni, che è il governatore della regione Lombardia, perché ieri a un certo punto ha detto noi lo sperimenteremo il reddito di cittadinanza. Abbiamo 200 e rotti milioni di euro, ce lo dirà Maroni, 270 credo, di fondi strutturali dell'Unione Europea, li metteremo a disposizione forse già da quest'anno per questo reddito di cittadinanza. Ci spiegherà come, perché all'interno del partito Salvini gli ha detto no, così non si fa, è un'elemosina di Stato, e quindi c'è anche una polemica politica all'interno della Lega. Tra poco con Maroni. Siamo alle 8:40 minuti a parlare di reddito di cittadinanza. C'è una regione dove c'è un presidente che dice noi lo sperimenteremo. Questo ha creato anche qualche diverbio all'interno del suo partito. È Roberto Maroni, governatore della Lombardia, ben ritrovato e buongiorno Maroni. Buongiorno. Allora, intanto con che soldi? Il Fondo Sociale Europeo, 220 milioni, queste sono le risorse che intende utilizzare? No, il Fondo Sociale Europeo è quasi un miliardo. Sì. Noi abbiamo fondi europei per 2 miliardi, metà di questi sono il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede alcune iniziative, alcuni assi, come si dice. Uno di questi è quello principale, l'occupazione, naturalmente le politiche attive del lavoro. Direi che pochi sanno meglio di me probabilmente cosa sono le politiche attive del lavoro, visto che ho fatto il ministro del welfare. Sì. E con Marco Biagi ci siamo occupati proprio di questo. Il secondo asse è l'inclusione sociale, parlo del Fondo Sociale Europeo, e cioè riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale, e cioè proprio l'intervento a favore di chi non può essere aiutato con le politiche attive del lavoro, che rimane naturalmente l'asse principale di intervento per lottare contro l'esclusione sociale. Mettiamo assieme queste due iniziative, queste due attività, io ho detto, e creiamo un sistema che ho chiamato reddito di cittadinanza, che mette insieme le politiche attive ma anche gli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale. Sì. Che non possono essere ricondotti alle politiche attive però del lavoro. C'è già una cifra, cioè lei pensa, perché il Movimento 5 Stelle, prima avevamo la senatrice Catalfo, ha detto noi vogliamo dare 780 euro al mese, la soglia minima di povertà sotto la quale c'è la povertà. C'è una cifra che lei pensa possa essere data per ridurre? Ma intanto partiamo dal fatto che il Fondo Sociale Europeo finanzia la Regione Lombardia per quasi 1 miliardo. Secondo, che la Lombardia probabilmente e tra le poche regioni che può permettersi un intervento finanziario rilevante, visto le spalle larghe che ha. Terzo, dico, discutiamone, ma il punto di partenza è, serve in Lombardia un intervento di sostegno al reddito per queste fasce di popolazione? Io dico di sì. Sì. Perché sono i numeri a dirlo. A chi andrebbe? Una fonte molto, molto autorevole, che penso voi conosciate, il Sole 24 Ore, sì, abbastanza, ha scritto qualche tempo fa che in Lombardia ci sono 700.000 persone in condizione di povertà. 700.000 persone che sono anziani, che sono persone che non possono essere avviate al lavoro. Al lavoro, scusi. E a questi io mi rivolgo, a questi sto pensando per questa misura, che è una misura complessa, complicata. Chiaro. Però 700.000 persone avrà un'idea, certo, lei dice prima bisogna discuterne, ma un'idea di massima di quanto si può dare al io mese? Io voglio fare qualche cosa di innovativo, non voglio ripetere il reddito minimo di inserimento, che è una misura inventata dal governo Prodi in metà degli anni 90, che io da ministro del welfare avevo cancellato perché era un sussidio assolutamente inefficace. L'avevo trasformata nel cosiddetto reddito di ultima istanza, sì. Okay? Che è una misura che, guarda caso, ha adottato un anno fa la Regione Veneto, okay? Interventi di sostegno per le persone che non possono essere accompagnate al lavoro. Vediamo come, vediamo quanto mettere, sì. Ma per me la cosa importante discutiamone, è discuterne, è fare qualcosa di innovativo. Però, ecco, coinvolgendo i comuni e il terzo settore, che sono, secondo il Fondo Sociale Europeo, lo strumento sociale che serve per gestire queste politiche. Però deve convincere intanto il suo stesso partito, no? L'ha sentita anche lei, c'è stata questa polemica a distanza. Salvini dice che il reddito di cittadinanza è un'elemosina di Stato. Come la mettiamo con la Lega? Non è così, non è così. Parlerò con Salvini, probabilmente è stato male informato. È chiaro che l'asse principale di intervento, ha ragione lui, ma si figuri se non sono d'accordo io, sono le politiche attive del lavoro. Ma la domanda è, un settantenne che non ha reddito e non riesce ad arrivare a fine mese e che va a cercare nei cassonetti della spazzatura, possiamo fargli la formazione per avviarlo al lavoro? Questo no, quanti chiaro. In questa situazione ci sono? Quindi accanto alle politiche attive del lavoro che servono, ci vuole però anche un intervento di carattere sociale, di carattere puramente sociale. Questo è il motivo per cui noi faremo questa sperimentazione. Voglio coinvolgere, come ho detto, i comuni, il terzo settore. Cominceremo già nelle prossime settimane a definire un progetto che poi sottoporrò ai comuni della Lombardia e a tutto il terzo settore, e vediamo se ci sono le condizioni. C'è la possibilità, secondo lei, che già quest'anno, se tutto va come nelle sue intenzioni, ci sia uno un assegno da dare ai lombardi? Già quest'anno ci dia i tempi nelle sue più rosee previsioni? Io dico di sì, anche perché c'è un motivo molto semplice. Abbiamo parlato del Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è 2014-2020. Adesso siamo nel 2015, sì. Giusto? Quindi ci siamo le lentezze burocratiche ci hanno già fatto perdere un anno, e se noi quei soldi non li spendiamo l'Europa ce li riprende, quindi prima si fa e meglio è. A chi dovrebbero essere destinati? Ovviamente i cittadini della Lombardia, residenti, ma anche gli stranieri, cioè i comunitari, guardi che l'Europa ci guarda su questo, cioè a chi non è che ho può parlato dirlo? Dei cittadini e i cittadini sono i cittadini italiani e i cittadini europei, esatto. esclusi gli extracomunitari. Vabbè, chiaro, i comunitari residenti in Lombardia esatto. da quando però? Cioè c'è un limite? Ma sono tutti dettagli, no, capisco. No, però sono importanti. Sono dettagli importanti però da mettere a punto. No, questo mi rende sono un po' sorpreso, mi lasci dire, da tutto questo clamore, perché ho detto una cosa che secondo me era di un'ovvietà, di una quasi banalità, cioè aiutare chi sta male, aiutare chi non ce la fa. La Lombardia, la grande regione Lombardia, non può permettersi di non aiutare i suoi concittadini che non ce la fanno. Dopodiché, come intervenire, con quali risorse, con quante risorse, sì, con che modalità e con che tempi, è aperta la discussione. Io voglio gente con cui confrontarmi, non che mi dica no a prescindere, questo perché sì. Non si sa. La prima telefonata, ma lei l'ha detto, la faccia a Salvini, insomma, certo. Per convincerlo, perché sennò le faccio la domanda in chiusura sull'Expo, perché lei ieri ha parlato del futuro dell'Expo e ha detto sarà la regione Lombardia a decidere, in quanto proprietaria di terreni, che sarà del dopo Expo. E ha parlato anche, lei vorrebbe nei suoi sogni fare un campus, un grande campus e un centro sportivo. Che sarà appunto del dopo Expo? Si ragiona già su questo? Sì, la decisione la prenderà la società Arexpo, che sì. È proprietaria dei terreni, di cui la Regione Lombardia è socia assieme al Comune di Milano. C'è una proposta che viene dall'Università degli Studi di Milano di realizzare lì il nuovo campus universitario dell'Università Statale di Milano, con le residenze e anche, io dico, quindi a questo punto con un centro sportivo che serva ai ragazzi che stanno lì tutta la settimana. mi sembra una bella cosa, visto dove si trova il sito Expo, è il punto strategico fantastico per questa iniziativa. Io sono assolutamente d'accordo, mi pare che il Comune di Milano sia d'accordo, il governo è d'accordo, lavoriamo tutti perché questo grande progetto si realizza. Ci faccia questo. La ringrazio, buona giornata ovviamente, staremo a vedere cosa succede su questo reddito di cittadinanza. Roberto Maroni è stato con noi, grazie, governatore della regione Lombardia, della Lega ovviamente. E che facciamo? Andiamo a sentire il traffico? Sì, perché poi tornano i nostri lavoratori. Abbiamo parlato di lavoro fino adesso in qualche modo, lavoro che non c'è anche. Lavoratori! Lavoratori! È il momento dei nostri lavoratori, coloro che ci scrivono sempre con grande passione a 24mattino@radio24.it, è la nostra mail, e ci vogliono raccontare, noi li chiamiamo in onda, che lavoro fanno. Oggi voglio salutare Federico, buongiorno Federico. Buongiorno dottor Milano, grazie di avermi invitato in trasmissione. Allora, Federico ci scrive che è un attore e cuoco al tempo stesso, o più, esatto. A più cuoco attore intanto. Beh, innanzitutto sono più attore, nel senso che è la cosa che ho fatto per 13 anni della mia vita, attore di teatro e di prosa. E successivamente ho deciso di dar voce all'altra mia passione, che è sempre stata, che mi ha sempre salvato da quella che si può definire la depressione da non lavoro, che è quella che è la di cucina, cucinare. La cucina. Esatto, e come si coniugano queste due attività, attore e cuoco? Beh, io credo in tal senso, vabbè, nessuno ha inventato nulla, credo, però credo che l'idea che ho applicato io sia poi la peculiarità dell'attività che ho creato. Si coniuga in questo modo: io sull'onda dei, non so se lei lo sa, degli home restaurant che stanno andando in questo periodo, cioè l'idea di aprire ristoranti in casa propria. In casa propria, che è una cosa bellissima secondo me. Esatto. Io ho cercato di unire, diciamo così, la mia professionalità come cuoco, perché poi di fatto sono diventato cuoco professionista, all'altro lavoro di attore, quindi invitando all'interno degli eventi che creo degli attori, dei performer, qualcuno che insomma, oltre a riempirsi la pancia, si riempie anche l'anima. Ah, fantastico, cioè mi faccia capire, invita le persone a casa sua o va lei a casa degli altri? Allora, tendenzialmente io ho una pagina Facebook che si chiama My Kitchen, oppure la mia pagina normale che è Federico Bonaconza, sempre di Facebook. Creo degli eventi, la gente si iscrive e all'interno di questi eventi io dico non soltanto che cosa cucinerò per i miei ospiti, ma anche chi li intratterrà. Ah, fantastico. Quindi magari c'è un attore che intanto recita, che ne so, cosa potrebbe recitare mentre le cucine, mentre si spadella, c'è qualcuno che intrattiene, che cosa? La lista della spesa io posso recitare in questo momento. Vabbè, no, ma in genere in questi non so, c'è un attore o diciamo tendenzialmente adesso che si apre la stagione estiva, diciamo che c'è un caldo a Milano pazzesco in questi giorni. Io ho un terrazzo, ho la fortuna di avere un terrazzo sopra di me, quindi io diciamo che in questi eventi preparo dei buffet che la gente di cui i miei ospiti sono già a conoscenza e nel momento stesso in cui si chiacchiera, si mangia qualcosa, si fanno dei commenti, a un certo punto c'è il momento della performance teatrale. Ma è fantastico, cioè. E qual è la performance che viene meglio? Cioè, non so, un monologo? Allora, guardi, in questo momento le attività sono appena iniziate, cioè ho un calendario eccetera eccetera, però tendenzialmente io voglio intrattenere con piccole performance, non si tratta di niente di estremamente serio, tendenzialmente comico. Nel prossimo evento per esempio abbiamo un duo di attori che si occupa di letteratura erotica, cioè cercano di far vedere che la commedia sexy degli anni 70 con Edwidge Fenech in realtà viene da molto molto molto prima, dai nostri grandi autori come Machiavelli eccetera eccetera. Quindi, e tutto questo mentre se magna, mentre si mangia e si riempie la pancia e l'anima. Ma è bellissimo, esattamente questo. E poi scusi se mi permetto, io sono sempre cresciuto con dei genitori che mi hanno sempre detto con la cultura non si mangia. Allora, lo diceva anche Tremonti, credo. Esattamente. E ora io voglio rispondere al signor Tremonti dicendo che nel mio caso con la cultura si mangia e ci si riempie. Ma è bellissima questa cosa. Esatto. Federico, ricordiamo la pagina Facebook, insomma, un po' di pubblicità. Grazie. La pagina è My Kitchen. La mia cucina. In inglese, dai, se non lo sapete com'è, imparate un po' l'inglese. Comunque, My Kitchen. E comunque, se non la trovano su Facebook, c'è sempre la mia pagina di Federico Bonaconza. Federico Borghi. Il cuocattore. E niente, vedranno sulla pagina degli eventi oppure saranno immediatamente reindirizzati alla pagina di MyTeacher. Vabbè, ma tanto come al solito poi c'è la nostra mail di appoggio, 24mattino@radio24.it, scrivete a noi se non siete riusciti a prendere tutti gli appunti e noi vi indirizzeremo da Federico, cuoco e attore, più attore che cuoco, ma prima attore, poi cuoco, ma ora attore intanto cuoco, e più cuoco, cioè adesso cuoco, vabbè, insomma, avete capito, si mangia e ci si riempie l'anima con Federico, uno dei nostri lavoratori. Ci fermiamo qui. Ringrazio Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Carmelo Lauricella oggi in regia, l'Alpino è stato rottamato. Potete anche seguirci dovunque, su Facebook, anche noi abbiamo la pagina 24 Mattino, il mio profilo Twitter Alino Milan, potete seguirmi anche lì, c'è il profilo Twitter di 24 Mattino e poi sul sito, ovviamente radio24.it, nella nostra pagina di 24 Mattino abbiamo tantissimi elementi, foto, audio, tutte cose in più, a gratis. A domani. Problema con Stoppiato che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no muoro. 24 Mattino.